It's almost time to hear the next dialogue, so here's the new vocabulary. Ecco il nuovo vocabolario. Ascolti e ripeta le nuove parole dopo la seconda volta. Che fame! I'm so hungry. Che fame! Ho sete. I'm thirsty. Ho sete. Fa caldo. It's hot. Fa caldo. Il solito. The same. Il solito. Non sei mai... You're never... Non sei mai... Contento. Happy. Contento. Trattoria. Restaurant. Trattoria. Di fronte. Opposite or in front. Di fronte. Adesso ripassi il nuovo vocabolario e poi continui.